Blue Time Live. Sono le 21 spaccate in questo preciso istante, anzi con qualche secondo in più. Buonasera da Agostino Spolaore, buonasera come sempre dal 50%, come dico sempre io, cioè Maurizio Calzavara. Che bello 50%. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Ciao Maurizio, ben ritrovato anche tu nelle frequenze di Blu Radio Veneto. Allora, questa è una serata, come sapete ormai, insomma da una quindicina, ventina di giorni a questa parte, che dedichiamo il tutto a, ai musical. Quelli che sono in concorso. Questa sera tocca un musical che è famosissimo, cioè We Will Rock You, e ne parleremo tra qualche istante, ovviamente con tutti i protagonisti. Sono tantissimi stasera, sono più o meno come l'altra volta con Al di là del vetro, te lo ricordi? Sì, erano 15, qua siamo un po' leggermente meno, ma siamo là. Sei sempre invaso da persone tu. È bellissimo. Nella Fossa di Leone è bellissimo. Allora, prima di cominciare questa intervista e scoprire questo musical, vi voglio ricordare i nostri dati, e cioè il numero telefonico in studio è lo 049 875 6423, mentre adesso vi voglio tutti presenti con carta e penna, perché vi do il numero di SMS dove dovete mandare la risposta esatta per aver diritto a ricevere gratuitamente due biglietti per l'ingresso omaggio, appunto, al museo che si terrà sabato prossimo 9 novembre al Polivalente di Albignasego. Quindi siete pronti? Penso proprio di sì. Allora 346 23 20 033, lo ripeto, 346 23 20 033. Tra un po' di minuti, insomma, vi faremo una domanda che sarà semplicissima, è solo un pretesto per regalare due biglietti omaggio, appunto, a una coppia, insomma, due amici o che ne so, marito e moglie, insomma, due bambini, chi volete voi, da portare sabato al Polivalente di Albignasego per questa rassegna che si chiama Sognando Broadway. Tra pochissimo avremo anche Cesare Bortolotto che ci ragguaglierà un po', insomma, com'è la situazione. E poi ancora vi voglio ricordare la nostra frequenza 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza, e poi ancora il nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it, e lì ci potete ascoltare in streaming in tutto il mondo. Abbiamo avuto riscontri un po' dappertutto, insomma. Io ne approfitto anche per salutare una carissima Daisy Chapman che ci sta ascoltando dall'Inghilterra, che comunque fa parte di un'agenzia tedesca. E poi nel nostro sito trovate tutte le informazioni inerenti anche alla nostra cara amata regione, e anche, perché no, le recensioni sui vari artisti che si susseguono in questa emittente facendo il loro live, presentandoci il disco e anche, appunto, come questa sera, questo musical. Lo ricordo, We Will Rock You, e adesso presentiamo questi ragazzi e qui diamo il benvenuto. Ciao ragazzi, benvenuti a tutti. Ciao. Intanto abbiamo Spugna che ritorna e anche Capitano Uncino. Voilà! Sì, capitano. Ce la fate 30 secondi da vecchia maniera? Eccoci qua, siamo qua apposta. 30 secondi. Dai, tocca a te, dai. Mi ricordo. Spugna, tuoni e fulmini, perché non rispondi mai al tuo capitano? Spugna, dove sei? Sono qui, capitano. Ma sei pazza, mi farai morire prima o poi. Hai ricominciato a bere. No. Spugna, ti farò saltare da quel trampolino un giorno o l'altro. Ecco, speriamo sia l'altro, capitano. Sempre simpaticissima questa scena. Perché questa scena? Perché loro sono praticamente gli autori del musical Peter Pan, che si è svolto 2 anni fa, se non sbaglio, giusto? Al Sognando Broadway. Beh sì, l'anno scorso siamo andati in scena l'anno scorso come apertura. Chiedo scusa. No, nessun problema. L'anno scorso, no. Per essere preciso. Cesare mi ha subito messo in guardia. Vieni qua Cesare, poi ne approfittiamo subito per farti salutare anche te. Ciao a tutti, buonasera. E allora sto Peter Pan adesso è diventato We Will Rock You? Diciamo che questa è una costola della compagnia del villaggio, perché poi vi spiegherà meglio Luca, il regista Luca Lovato. Parte tutto dalla loro idea di creare questo corso per musical, e perciò questi, ma poi lui vi spiegherà molto meglio, sono ragazzi che arrivano appunto da questo CVD Lab, che non è altro che Compagnia del Villaggio Lab, presumo. Bravissimo, bravissimo. Hai vinto i due biglietti. Ecco, grazie. Più che altro un laboratorio, Luca, questo è importante, è un laboratorio. È un laboratorio che mette insieme idee e naturalmente energie nuove. Infatti la voglia di crescere è stato questo il motivo dell'avvento del CDV Lab. Chiaramente la compagnia ha bisogno di nuove risorse, ha bisogno di un nuovo gruppo di ragazzi, ed eccoli qua, arrivati appunto da un percorso dove vicino a loro ci sono stati insegnanti di buon livello, devo dire di ottimo livello, si stanno ascoltando, bravissimi, migliori. E per quanto riguarda appunto il gruppo, poi è cresciuto e adesso vogliamo in qualche modo dargli quel passaggio, che è quello di affrontare un pubblico che non è la mamma, il papà e tutti gli amici. Cioè bisogna fare gavetta, preparare, studiare, costruire. Questo l'idea anche del laboratorio. Assolutamente sì, infatti loro sono partiti con dei laboratori di canto, recitazione, danza e dizione. Insomma, in qualche modo si stanno avventurando nel mondo dell'arte, del musical in questo caso, cercando di approfondire, di avere poi le armi per vivere la loro passione nel migliore dei modi. E vi siete avventurati in un musical difficile dal punto di vista anche di coesione delle voci. Qui avevano delle coesioni perfette, erano dei mostri musicalmente per quanto riguarda le voci, e non è semplice avvicinarsi a un musical così famoso, così importante, così pesante musicalmente parlando. Assolutamente sì, infatti se l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto perché alle spalle sapevo di avere intanto dei musicisti di valore che potevano supportare la cosa. Dall'altra parte l'abbiamo fatto come sfida, cioè in fin dei conti un laboratorio. Certo. Un laboratorio deve osare, andare oltre, cercare una soluzione dove le soluzioni a volte sembrano inarrivabili. I ragazzi hanno messo il loro, ripeto, sono comunque un prodotto da un laboratorio, quindi dobbiamo anche vederlo in questo modo lo spettacolo, non guardiamolo solamente dal punto di vista puramente tecnico. Esattamente, un percorso di crescita praticamente. Sì, esatto. Che poi tra l'altro oggi parlavo anche al telefono con Luca, e alla fine è proprio anche l'idea di Sognando Broadway, cioè questo sogno che magari non arriverà mai, andare a Broadway o perlomeno non so, andare a vedere uno spettacolo, ma sicuramente non a farlo, però diciamo che incarnano perfettamente l'idea da cui è partita 3 anni fa Sognando Broadway. Dubbiamente. Infatti voglio in questo senso, come è già stato detto, sposo assolutamente l'idea che avete avuto, quella di creare questo concorso. Uno, perché non ce n'erano. Due, perché il linguaggio del musical ora sta cominciando a diventare popolare, ma fino a qualche tempo fa era riservato solamente agli anglosassoni o comunque a una realtà che non era la nostra. Noi eravamo molto più portati all'opera, e invece esiste anche questo, che è un modo giovane di raccontare la vita e la storia e di approcciarsi all'opera praticamente. Esatto. È un modo giovane, un modo diverso, un modo musicale, più musicale, meno legato al libretto. È un libretto un po' aperto, un po' libero, possiamo dire questo. Sì, beh, direi... Ci sono dei paletti chiaramente, però l'interpretazione, l'opera invece è un'interpretazione piuttosto precisa chiaramente. Diciamo che a me piace sempre vedere anche la differenza, cioè il modo di recitare che si ha nel musical è molto più vicino alla realtà. Sì. E quindi porta la gente a essere quasi più attratti dal punto di vista emotivo, perché si vede, si rivede in quello che succede sul palcoscenico. Certo. Entriamo un po' nel dettaglio, Luca, se mi consenti. Allora, per chi non conoscesse insomma questa opera, cosa si tratta? O volete già fare una canzone? Diciamo solamente, prima facciamo una canzone e poi parliamo se volete. Diciamo solamente che questo è un musical dedicato alla musica dei Queen, solo ed esclusivamente dei Queen, per chi non lo sapesse, ma tanto penso sia risaputo. Se vuoi fare una canzone poi parliamo... Sì, vuoi che solamente per appoggiarla? Certo. Per dare un'ambientazione? Certo. Allora, l'idea è questa. Siamo in un futuro dove oramai la musica è morta, non abbiamo più strumenti musicali e tutto è avvenuto grazie a X Factor e a tutti quei programmi che vogliono in qualche modo omologare la musica e rendere le persone in qualche modo dei Gaga, li chiamano così, Gaga Boys, cioè delle persone che si muovono tutti allo stesso modo, cantano tutti la stessa cosa e scaricano tutti quanti la musica da internet. Invece, in questo caso qui, abbiamo dei ribelli, qualcuno che pensa che la musica sia possibile ancora essere fatta in live con semplicemente la voce umana e la voglia di esprimersi. Proprio per questo la parola libertà è una delle prime parole che esce, ed esce proprio con Galileo, che è il protagonista, e vi lascio al pezzo di Galileo. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need you. I've got to break free. For God knows, God knows I want to break free. I'm falling in love, I'm falling in love for the first time. In love with a word that's for real. I'm falling in love. Oh, God knows, God knows I'm falling in love. Oh, it's strange, but it's true. Oh, no, I'm different, there's some things I have to do. But I have to be sure when I walk out the door. Oh, I've got to be free, baby. Oh, I've got to be free. Oh, yeah, I want to break free. The 16 senses work. I can't get used to living without, living without, living without. Oh, it's all a lie. I don't want to live alone. Oh, God knows I've got to make it on my own. Oh, people, can't you see? God knows I've got you. God knows I need you. God knows I want to break free. E bravo Matteo, stai lì, stai lì. Matteo, che difficoltà hai nel fare Galileo? Beh, è Matteo stato, dal è Ponte. Stato, ciao a tutti. Ciao. È stato un bel percorso, è stato impegnativo, e anche e soprattutto trovare quella che è la, quello che è il personaggio. Quindi trovare uno stile, trovare l'intenzione per fare un personaggio che comunque in un musical rock probabilmente è il più pop. Quindi sì, è vero, hai detto la cosa giusta, è il più pop rispetto al musical rock. Quindi ti trovi a dover svolgere questo ruolo che tratta l'insicurezza, tratta il personaggio timido in mezzo a questi bohemians, in mezzo a un gruppo di personaggi che esprimono tutto il rock possibile. E ci hai messo un po', insomma. Ci ho messo un po', la difficoltà è proprio quella, riuscire a immedesimarsi con la sua pazzia, con il suo modo di porsi, il sognatore, quindi deve fare un percorso che da pop lo porta ad essere il personaggio rock. Cos'altro dire? Cos'altro dire? Una mano. Dire che Matteo è uno di quelli che è partito come pennino nel Peter Pan, faceva una parte piccolissima, vedi. È divenuto protagonista in questo spettacolo qua. E quindi un plauso, perché ha tenuto duro. Devo dire che i primi anni lo battevamo bene, come si suol dire, per riuscire a farlo crescere. Ovviamente questo pezzo è un pezzo da protagonista, è tratto da un album famoso dei Queen del 1984, è stato scritto non da Freddie Mercury ma da John Deacon, che era il bassista della band. È un inno, è diventato un inno anche questo, come tutti i pezzi di Queen, che hanno un certo trasporto. Galileo è trasportato quando canta un pezzo simile. Cosa dici, Galileo? Sicuramente. Esatto. E quindi la storia poi chiaramente comincia a prendere i connotati già da questo pezzo. Parliamo proprio parliamo di questo musical, la storia. La storia di questo musical. Questa chitarra sulla roccia, cosa c'entra? Sì, questa chitarra sulla roccia, quella è la spada più potente che l'uomo possa avere, la libertà è quella chitarra. Infatti a rappresentare un po' la libertà c'è questa chitarra che non uscirà se non alla fine. Ed è questo percorso che poi porta alla Bohemian Rhapsody, no? al pezzo che fondamentalmente è dedicato alla chitarra ed è dedicato poi a chi vive in questo mondo. È una bella storia comunque. Devo dire che inizialmente, allora premetto che il pezzo l'avevo visto in quel di Londra, Quindi, visto in originale, devo dirti che la prima volta la storia mi sembrava un po' incollata, non avevo capito bene il significato. Però devo dire che ha il suo senso ed è molto, molto attuale, molto attuale. Certo. Infatti il personaggio, che poi è il personaggio pop che ha Galileo, nella sua trasformazione è quella che potrebbe avere chiunque dovesse decidere un giorno di entrare nella musica e conoscerla veramente, quindi quel rock che nasce, quella voglia di sentire l'emozione tra le note e non semplicemente, appunto. Quando l'hai visto a Londra? Stiamo parlando del 2006. Perché il 26 aprile del 2002 è stata la prima, sì, in assoluta. Esatto, ha compiuto da poco 15 anni. Sì, 15 anni, esatto, circa. 15 anni. Quindi è stata la prima. Prima la presentazione il 26 aprile del 2002 e i pezzi sono dei Queen, ma di anche di Ben Elton, cioè praticamente l'autore è anche lui. Ben Elton ha messo tutto quanto alla storia, mentre i Queen hanno messo alcuna musica sonora. Devo dire che Brian May ha avuto l'intuizione di rendere questo spettacolo possibile a tutti, perché secondo me appunto mancava questo passaggio. Infatti adesso i giovani, e ne abbiamo la prova qui, conoscono benissimo la musica dei Queen, e stiamo parlando di musica che comunque ha un po' di anni. Decisamente. Ok. Decisamente. E attualmente devo dire che in Italia ha avuto quel bel 2 anni dove ha girato e ha fatto secondo me una bella impressione. Sì, io e Maurizio e assieme anche ad Alberto l'abbiamo visto qui a Padova e siamo rimasti veramente molto ma molto entusiasti della maestosità dell'opera, insomma. E sinceramente non ci aspettavamo tante cose, che non voglio svelarle perché probabilmente le farete anche voi. E però ecco, la storia, come dicevi tu, veramente anche a me all'inizio era un po', ma sembrava, sai, quelle cose fatte e rifatte, insomma. E invece poi man mano, ma poi c'è questo unire quello che è l'aspetto tecnologico del futuro al ferro del rock, che secondo me è nel suo minimalismo è proprio lì la forza, perché il palcoscenico si trasforma e diventa il futuro e poi diventa la cosa più la betola che c'hai vicino, cioè, a casa, insomma. E tutto questo poi ti crea anche quell'atmosfera giusta per vivere il rock. Alla fine ti viene ad alzarti dalla sedia, sì, e sì, spaccare, sì, tutto, come si suol dire. C'è un ritorno, scusa Maurizio, sì, c'è anche un ritorno comunque ai vecchi, diciamo, big del rock, ai vecchi artisti grandi, quando c'è No One But You, per esempio, che nominano tutti i vari personaggi, da Jim Morrison, Elvis e via discorrendo. C'è un ritorno comunque, non vogliono dimenticare quella musica lì. No, beh, ma questo appunto sono i ribelli che decidono di tenere in piede i poster, che sono queste figure pesanti, esatto, che stavano nelle camere, che non erano l'iPad che cambiava la schermo ogni 5 minuti, era quel personaggio che ti restava lì per tutta la vita, e tu crescevi avendo l'infanzia segnata da Freddy, da qualsiasi personaggio degli anni 80, da Sabrina Salerno, da... Sì, anche quello, sì, anche quella, un personaggio di un certo peso, assolutamente, sì, assolutamente. Ma tu hai detto una cosa giusta, i poster, cioè adesso sono giovani questi ragazzi qua, i poster erano un elemento molto importante per avvicinarsi alla cosiddetto al mito rock. Il poster era importante. Nella camera di tutti c'era un poster di un certo livello. Io avevo il poster dei Beatles perché amavo i Beatles. Chi aveva il poster di Madonna? Chi aveva il poster dei Queen? Chi aveva il poster di Pink Floyd? Dei Rolling Stones? Il rock è quello. Il rock è movimento. Il rock è passione. Assolutamente. Infatti, e poi alla fine di tutto, come dice Britt, che è uno dei personaggi più rock dello spettacolo, credo che il rock alla fine sia essere liberi. E cioè il fatto di potersi dimostrare per quello che si è senza avere paura di cosa possano pensare gli altri. Britt lo voglio salutare perché si chiama Paolo Barillari, quello che portava in giro, sì, ed è venuto anche qui e ci ha fatto uno sketch appunto anche lui da Rocchio, sì, insomma. Poi abbiamo conosciuto anche la Marta Rossi e insomma un po' di artisti che fanno parte di quel cast sono passati, cast, sì. È stato molto comico anche in certi momenti. Assolutamente. Non so se anche voi riprendete certe... Guarda, lo spettacolo per quanto mi riguarda è bello perché offre questi estremizzazioni dei personaggi. Poi conoscerete Killer e il generale, che nel loro essere coppia ed essendo invece i protettori della globalizzazione e quindi degli Gaga, sono i personaggi più rock di tutti, sì. Ed è questa la stranezza dello spettacolo, perché ti porta a volte a sorridere ma in realtà è quello che stiamo vivendo in, certo, in molte cose. Certo. Vabbè, poi parleremo magari anche del palco, della sceneggiatura, i costumi e quant'altro. Adesso ci ascoltiamo un'altra canzone. Cosa sì, ci fate? Allora, la presento io, dai. Va bene? Lo vuoi? Sì, no, sì. Se no, se vuoi presentarti, molto volentieri. Va bene? Ok, presentati, allora, vai. Salve a tutti. Allora, la canzone che andiamo a cantare adesso è Somebody to Love. È la canzone che canta Scaramouche. Tu è... sei Scaramouche? Sì, esattamente. Che è invece la protagonista femminile del musical. Posso dire una cosa? Sì. Anche in quello italiano c'era una Scaramouche piccolina. Sì, vero? Senza offesa, Anche no, tu. No, ma sono tascabile. Tascabile. Tascabile. E in questo momento Scaramouche si trova con le sue compagne di scuola, che sono le Gaga, che la stanno prendendo in giro perché lei non è come loro, quindi nella loro ottica lei non troverà mai un ragazzo, non sarà mai felice, non sarà mai come loro. E lei, pur sapendolo, pur cercando di difendersi col suo sarcasmo, non può fare a meno di chiedersi se effettivamente troverà mai qualcuno di cui innamorarsi. E da qui parte, da una frase che lei legge sul diario di Galileo, parte quella che è poi la canzone. Quanta difficoltà hai fatto, hai avuto per fare Scaramouche? Scaramouche in realtà è un personaggio bellissimo, sì, secondo me. Sono d'accordo. Permette anche molto di liberarsi, di fare quelle cose che magari nella vita reale uno non può fare. Magari arrabbiarsi, essere molto sarcastica, che per me è stato divertentissimo. Certo. E in generale comunque come ruolo è un motore, per cui più di tutto mi sono divertita. Poi ovvio bisogna sempre adattarsi ai personaggi, certo, che si fanno, però diciamo che ho avuto molta fortuna. Bene, ci ascoltiamo Somebody to Love. Can anybody find me somebody to love? Each morning I get up a dilated, can't barely stand on my feet. Take a look in the mirror and I love what you're doing to me. I spent all my years believing you, but I just can't get a relief. Lord, somebody, can anybody find me somebody to love? Qualcuno che ami te? Sì, certo. Pronto? Questo non succederà mai. Metti il segnale ad occhi aperti, fatti una vita virtuale. Got no feel, I've got no rhythm, I just keep losing my beat. Yeah, I'm okay, I'm alright. No, I ain't gonna face no defeat. I just gonna get out of this prison cell. Someday I'm gonna be free. Lord, find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me, find me, find me somebody to love. Find me. Lucia Dante, brava, brava. Scaramouche. Pezzo molto difficile musicalmente, spinto da Freddie Mercury, forse molti non lo sanno, l'origine era un pezzo gospel, lui si era ispirato a un pezzo di Aretha Franklin, e allora l'ha inventato, l'ha creato, ha spinto, questo è sicuramente uno, è proprio l'icona dei Queen, è l'immagine dei Queen, e sei stata brava. Cioè, ricordando Freddie, e tu hai fatto uno sforzo notevolissimo, ecco, come sei riuscito, caro Luca, a far entrare nella parte la nostra protagonista? Allora, intanto devo dire che ho avuto dei collaboratori molto interessanti, Laura Benetti e tutti quelli che hanno lavorato con me, però è stato fatto un lavoro a volte anche sulla strada, vestendoli rock e facendoli sentire diversi, perché una delle cose che devono fare prima di tutto i ragazzi è uscire da se stessi e dimenticare quel pop che hanno dentro. In questo caso però Scaramouche credo che abbia avuto nel giro di un anno e mezzo, io l'ho vista veramente, e sto parlando di lei, cioè lei come persona, questo musical qua secondo me l'ha resa comunque molto solare, l'ha fatta perché crescere, l'ha fatta cambiare diciamo, più così, che crescere, cambiare. E trovo che adesso sia un po' più rock, cioè mentre prima la vedevo una molto per bene, che Biancaneve stava, più o meno, esatto, più o meno Biancaneve, adesso ha la capacità anche di porsi, e c'è una buona solarità. Secondo me è un percorso, un viaggio anche quello di poter vivere uno di questi. Ma il rock è come mangiare dei cibi buoni che fanno piacere allo stomaco. Il rock fa piacere alla mente, secondo me. Io sono rocchettaro da una vita, ma fa piacere sappiamo, alla mente. Sappiamo. Tu non sei rocchettaro. Anche se ami un certo, no, Queen li adoro, anche se ami un certo gruppo che non è propriamente rocchettaro, ma lasciamo c'entra, perdere. Non c'entra. È una battutina. Sì, certo. È una battutina. Grazie. Prego. Ricordo benissimo un direttore d'orchestra che mi diceva che lui andava o verso l'hard rock oppure verso la classica, perché perfetto, erano i però, due. Secondo lui erano i virtuosismi, stavano lì, in mezzo c'è solamente è tutto piatto, diceva. Ecco. Beh, comunque appunto lei è riuscita a entrare anche perché fondamentalmente Scaramouche ha un ruolo fondamentale, perché mentre quello che abbiamo sentito prima, Galileo, parte proprio come insicuro, lei invece è veramente una lama durante tutto quanto lo spettacolo e non fa scappare nulla a nessuno, non ha paura di niente, e questo rende il personaggio di spessore dal punto di vista della recitazione. Credo che molta parte dello spettacolo sia sulle sue spalle, forse se ne è accorta, però sì, d'accordo. È lì. Ecco. Avete riportato fedelmente il musical originale o ci sono delle battute vostre? Chiaramente ho fatto un lavoro anche di adattamento e poi mi sono ispirato un po' di più a quello anglosassone, ti dico la verità. Diciamo, meno quello italiano. Meno quello italiano, un po' più quello anglosassone. Mi piacevano alcune linee, alcune caratteristiche dei personaggi, alcune battute, il fatto di tenere i personaggi sempre dentro alla storia e farli uscire magari un po' meno. Scelte registiche. Certo. Le canzoni sono tutte cantate in inglese? Sono tutte quante cantate in inglese. Mentre la recitazione è italiana. Tutta quanta in italiano. Infatti devo dire che non mi è passato per la testa di cambiare le canzoni dei Queen, perché credo che siano fondamentalmente la gente ormai le sente così, anche se non sono in italiano e quindi non capiscono bene le parole, però credo che un po' mi sentirei a disagio nel sentire una canzone dei Queen in italiano, ma questa è una mia impressione, mio punto di vista. Ricordo sempre, più che mai, il nostro numero di SMS, che stasera vi voglio sottolineare ancora una volta. Avrete diritto, se indovinate, a una domanda che fra poco Luca o chi per essa insomma vi farà, di indovinare due biglietti per sabato prossimo lo spettacolo musical di Sognando Broadway, cioè con We Will Rock You, che si terrà alle ore 21 al Polivalente di Albignasio. Ne approfitto, visto che sto parlando di questa struttura, di chiamare in causa ancora la tappezzeria di questa radio, cioè Cesare, perché lui ormai è fedelmente qui. Come siamo messi? So che ho letto un annuncio che i biglietti proprio basta. I biglietti sì, per Will Be Rock You sono esauriti, perciò abbiamo gli ultimi due, proprio li abbiamo tenuti per questa sera, per chi vincerà il premio. E sta andando molto bene la rassegna, in realtà tutta la rassegna sta andando bene. Adesso stiamo entrando praticamente nel vivo, ci sono ancora due spettacoli in concorso e poi il gran finale con la Ruppe dei Re, che sono i vincitori dello scorso anno. E ricordiamo che i primi due che abbiamo assistito in gara erano inediti. Esatto. Gli altri due invece sono già, sì, sono già famosi, sì, sono già conosciuti. A proposito di cover, caro Luca, forse molti non lo sanno, questo pezzo è stato tradotto da Mia Martini in italiano. Quindi l'ha tradotto Mia Martini, ha volutamente tradotto lei, non è che sia stato tradotto da altri, da lei, Mia Martini, e si chiamava Per Amarti. Quindi è stata una cover di grande spessore, secondo me, fatta da Mia Martini. Ritorniamo al musical. Allora, tutte le canzoni sono suonate dal vivo. Assolutamente. 30 canzoni. Credo fosse anche questa una strada obbligatoria, visto che parliamo di cosa? Della morte del rock e del fatto che lo strumento musicale invece deve continuare a vivere, e di conseguenza mi sembrava almeno dovuto che ci doveroso che ci fosse lì la musica dal vivo. E a tal riguardo devo dire che la fortuna è anche avere degli amici che la musica la conoscono e mi hanno permesso, anzi ci hanno permesso, perché faccio una premessa: la Compagnia del Villaggio è nata nel 2004, siamo nel 2014 oramai, quindi stiamo per compiere questi 10 anni, e in 10 anni la strada si è vista. Insomma, l'esigenza di crescere non è solamente per i ragazzi come artisti, ma anche come compagnia. E un musical con la musica dal vivo, devo dire che offre tanti spunti per continuare a fare questa passione, continuare a vivere questa passione. Ma la Compagnia del Villaggio rimane solo un percorso parallelo entro la Compagnia del Villaggio? Sì, allora, il CDV Lab è un laboratorio che fornirà, si spera, sempre più artisti alla Compagnia del Villaggio, quindi la terrà in vita e faremo in modo che lei non morirà mai. Infatti poi lo vedrete, sarà una sorpresa, chiaramente la Compagnia del Villaggio sarà... No, non ve lo dico. Si fa così di solito per far venire voglia. Non diciamo neanche non i musicisti? Ma io direi di sì, invece che i musicisti. Sono... Però posso passare la palla al mio braccio destro, Capitano Uncino, sì. Detto anche in questo caso il chitarrista. Buonasera. Ciao. Come stai? Bene, grazie. Sono qui in rappresentanza della band. Allora, questa sera, per onor di cronaca, bisogna dire che sono accompagnato, anzi, noi accompagniamo i solisti. Noi siamo in tre, in situazione naturalmente acustica. Allora, abbiamo Luca Ferrarotto al basso, che solitamente si occupa della parte tecnica per quel che riguarda l'audio, per cui è il fonico a tutti gli effetti. Ed è bello, anche un bel ragazzo. Ed è un bellissimo ragazzo ed ha anche disponibilità economica. E, 40 campi edificabili. E Luca si è reso disponibile perché i miei colleghi purtroppo questa sera avevano altro da fare, però li salutiamo caldamente. E alle percussioni abbiamo Tommaso Maddalena, che ha già avuto altre esperienze con la compagnia, con un altro prodotto che è il Re Leone. Un ragazzo giovanissimo, dobbiamo dire. Sì, sì, assolutamente. La promessa del percussionismo in Veneto. Bene. Assolutamente. Apro una piccola parentesi, salutiamo anche l'accompagnatore Giancarlo Maddalena. Grande Giancarlo. Ciao Giancarlo. giustamente. È qui con me in regia. Però possiamo dire anche i musicisti che suoneranno. Guarda, poi lo stavo per fare. Allora, abbiamo alla direzione musicale Antonio Lanzillotti. Abbiamo al basso Loris Peltrera, alla batteria Francesco Del Zoppo e all'altra chitarra Giovanni Pretto. E poi abbiamo i coristi, che sono Elena Sbalchiero, che è qui con noi stasera, Chiara Santa Giuliana, che tra l'altro si è occupata di fare da vocal coach nel corso del laboratorio dell'anno scorso, e poi abbiamo Mattia Gandolfo, sempre come corista. Perfetto. Ecco. Una cosa fondamentale. E anche Laura Vialetto. Anche Laura Vialetto, sì, questa sera sì, ma poi sarà anche sul palco, Laura. Fai doppia parte. Tu sei una gaga? All'inizio sì, poi divento buina. No, avvicinati per favore. Sì, all'inizio sono una ragazza gaga, sono una di quelle che prende in giro Scaramouche. Poi no, divento bohemian. Una cosa fondamentale, Luca: quanto importante è avere una band che trascina lo spettacolo? Fondamentale e significativo al 100%. Direi che in uno spettacolo rock poi i ragazzi, credo che quando hanno fatto la prima prova con la band, si sono resi conto di cosa stavano per portare in scena. Quello è importante. Perché fino a quel momento sentire o cantare sopra delle basi non è la stessa cosa, non è assolutamente la stessa cosa. E devo dire che poi la cosa cioè l'energia che portano in palco si riflette assolutamente tra la gente, e per i ragazzi è un'adrenalina, è una marcia in più. Certo. Quanto ci avete messo ad essere pronti per questo musical? Allora, il lavoro parte nel 2012 come regia, quindi preparazione del copione, e da lì abbiamo cominciato a lavorare con la parte musicale. Loro sono arrivati a settembre e l'hanno portato in scena a giugno, il 7-8 giugno, 8-9 giugno dello scorso anno, quindi 2013, come saggio di fine anno. E il fatto di aver voglia di metterlo in scena, appunto, a Sognando Broadway era prima di tutto, come ho già detto, la volontà di fargli provare il fuori casa, dove non sono abituati, e quindi sarà un'esperienza nuova, sarà lì che vedremo l'artista nel vero senso della parola. Come esce? E questo devo dare merito a Cesare, insomma, che ha scelto tutte queste compagnie che sono veramente alle prime armi. Anche 15 giorni fa, che c'era appunto, come dicevo prima, la Didal del Vetro, insomma, anche loro erano per la prima volta che uscivano dalle mura domestiche, chiamiamolo così, e si sono proposti all'attenzione. Insomma, è bello sapere che c'è gente che ci crede e vuole dimostrare il loro valore, insomma, il suo valore. Sì, devo dire che appunto, un po' di emozione c'è comunque. Ci sarà molta emozione. Anche da parte tua, vero? Sempre. Sempre. Sempre. Io credo che, e lo dico sempre ai ragazzi, che fino a che non si apre quel sipario, la sensazione deve essere di non riuscire a stare fermi, di avere quel formicolio continuo che ti fa aver paura, ma nello stesso tempo essere cosciente che sei tu a dover domare la scena da quel momento in poi. Ed è una magia questa. Certo. Che magia ci fate adesso? La prossima magia, per quanto mi riguarda, è l'incontro finalmente di questi due cattivoni, protagonisti anche loro dello spettacolo. Sono il generale Khashoggi e Killer Queen. Killer Queen è una donna a capo del mondo. E la regina. La regina, la regina. La regina cattiva. Eccomi. C'è una regina cattiva, sì, Federica. Sono cattivissime in questo musical. Federica Di Maria, giusto? Sì, sì, sì. Tanto cattiva? Beh, diciamo di sì. Ho dovuto tirare fuori la parte più inaspettata di me, diciamo, sì. È veramente, sì, è cattiva, però forse perché è un po' viziata. È nata così, è abituata ad avere tutto e quindi lo pretende. E questo è un po' il personaggio, quindi. Certo. E invece il generale è Andrea Borile. Ciao a tutti. Ciao. E tu invece? Aspetta, che abbiamo un giro di cuffie perché siete tantissimi. Sì. Ci sono. E tu invece che difficoltà hai avuto a fare il generale? Difficoltà? Beh, con una killer qui così vicino. Non sforare troppo nell'altro ruolo. Non essere troppo il cattivo di turno. Sì, ma è più cattivo lui a volte. Sì. È difficile avere un capo come killer. Come killer. Però devi obbedire, insomma. Purtroppo. Deve assolutamente. Vabbè, qual è il vostro compito nella storia? No, vado io. Posso? Prego, lasciamo il capo. Noi diciamo che manteniamo questo status quo e questa omologazione che si è venuta a creare sul pianeta e, per appunto evitare che possa tornare la musica, il rock e quindi la personalizzazione delle persone. E quindi diciamo che questo compito, siccome io sono viziata, l'ho assegnato al generale. Molto viziata. E quindi lui è il responsabile della sicurezza su questo pianeta e si occupa di reprimere questi Bohemians, che sono i ribelli appunto della situazione. Ci ascoltiamo? Sì. Kind of Magic. Kind of Magic. One dream, one soul, one prize, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win the day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is challenging the doors of time. The waiting seems eternity. The day a kind of magic. It's a kind of magic. There can be only one. This rain will last half a thousand years. We will live on this flame that burns inside. See? Eccoci qua. La solita curiosità rock. Questa è tratta dalla colonna sonora di Highlander, l'ultimo immortale. Già dire l'ultimo immortale ha un c'è un collegamento, secondo me. Cosa dici, Luca? L'immortalità della musica. Esattamente, l'ultimo immortale in questo senso qua, anche se poi il film parla di altre cose. Però ha questo significato, secondo me è un significato pesante, che dà un indice, dà una direzione, dà una guida. Ah beh, devo dire che poi la guida è data ancora di più quando alla fine è inutile. Per più volte durante lo spettacolo credo che ognuno di noi abbia pensato a Freddy. Esattamente, ah, Freddy è proprio quello che è il trascinatore. E quindi, come dire, tu stai pensando a quando lui ha in qualche modo assegnato la storia, in quanto tempo l'ha segnata, e poi ti rendi conto di quello che ha fatto. Perché poi ho scoperto, guardando un po' in giro, poi tu lo saprai benissimo, che i Queen sono uno dei pochi gruppi che non è diventato famoso subito, no, a 18 anni. No. Erano tutti laureati. Sì, esatto. Quindi erano tutte quante persone che probabilmente avevano una strada in qualche modo già segnata. Il fatto di doversi aggrappare alla musica così probabilmente era una forza che andava oltre a tutti gli altri perché. Ecco. Stranamente questo pezzo agli americani non piacque. Come mai? Non piacque agli americani, piacque invece poi la tournée colossale che fecero più tardi, ma non piacque, non arrivò neppure nei primi posti, mentre in Inghilterra rimane in classifica ben 63 settimane. Quindi una cosa un po' strana. Gli americani sono un po' strani, come gli inglesi, come gli italiani musicalmente parlando. Ne parlavamo l'altro giorno, cioè ci sono cose. Sono cose che vanno e vengono. La musica rimane, però il rock rimane con R maiuscolo. Assolutamente. Ma possiamo prendere lo spunto, visto che non l'abbiamo ancora fatto, di fare un pezzettino di recitato tra questi due signori qua. Certamente. È molto interessante. Prego. Beh, ve lo premetto. Arriviamo finalmente a un punto importante. Il generale è riuscito a trovare Galileo. Galileo è il sognatore, lui lo stava cercando, e Galileo lo porterà fino ai Bohemian, e quindi l'ultimo dei ribelli se ne andrà, e a questo punto avranno vinto. Killer sarà l'unica a regnare in questo Planet Mall, che poi è la Terra quando saremo nel futuro, questo vecchio, vecchio pianeta. Ma ora vi lascio alla soddisfazione di Khashoggi nell'aver trovato Galileo. Maestà! Sì, generale. Ottime notizie, maestà. Devono esserlo. Mi sto facendo fare la ceretta. Dunque. Beh, credo che l'ultimo dei restanti ribelli sarà presto sotto le mie grinfie. E a quel punto lo dovrà schiacciare senza pietà. Ma maestà, maestà, maestà, lei è incredibile! Lasci stare la mia incredibilità. Stavamo parlando dei ribelli. Ribelli. Sì. Beh, l'ultima cosa che vogliamo è preoccupare i ragazzi Gaga, proprio adesso, con l'arrivo dell'estate. Non esistono stagioni nel mondo virtuale, generale. Oh, non online, madam. Ma il mondo naturale ancora esiste. Fa caldo lì fuori, un caldo impressionante. I fiumi e i mari si stanno prosciugando. E la resistenza crescendo. I Bohemians. Esatto, maestà. Ma chi sono queste persone? Cosa vogliono? Oh beh, vogliono la loro Rhapsody. Quella è una parola inventata, generale. Nulla del genere esiste. Beh, veramente? No, mai! La Bohemian Rhapsody è un mito. Un mito, capito? Non è stato lei a dire che l'euforia che queste persone stanno cercando può essere liberata soltanto attraverso la musica. Musica dal vivo, musica vera. Questo è quello che sicuramente loro pensano, maestà. E allora non ci sarà nessuna Rhapsody, visto che non c'è più nessuno strumento su Planet Mall. Ed i ragazzi non faranno mai e poi mai la loro musica. Mai più! Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. In È sempre bella questa canzone, non me la facciamo sentire tutta. Anzi, siamo pronti per il gioco, sono le 21.45, l'ora ideale per fare questa domanda. Vi voglio ancora una volta dire il nostro numero di SMS per mandarci la risposta esatta a questa facilissima domanda. Ve lo ricordo, quindi il 346 23 20 0 33, lo ripeto, 346 23 20 0 33. Mi raccomando, lo ripeto, quando mandate la risposta metteteci per cortesia anche il vostro nome, altrimenti poi diventiamo matti a trovarvi. Quindi la prima persona che indovina questa domanda si porterà a casa due biglietti per partecipare gratuitamente al musical We Will Rock You, che si terrà sabato prossimo al Polivalente di Albiasego, presso Sognando Broadway, ovviamente. La domanda è? La domanda è: si dice che il primo video musicale fu dei Queen, ma di quale canzone si tratta? Ah, qui andiamo... Ma è semplice, semplice. Semplicissima. Bene, andiamo avanti? Andiamo o... avanti. Un aiutino, volete dare un aiutino? Piccolo aiutino. Anche l'aiuto ci vuole. Sì, lo sì. Dobbiamo dare? Eh sì. Non fatevi, no, non perdete, ci sono, è nell'aria, l'aiuto è nell'aria, anzi nell'etere. Appunto. Va bene, senti, lo vogliamo svelare dove troveremo i musicisti o no? No. Ma scherziamo? No, no, no, ma no, stiamo no, scherzando o cosa? No, no, no. Ci saranno, ci saranno. Vi manca però la ragazza con la rocchettara, proprio con la chitarra, almeno... Come manca? C'è, assolutamente. C'è una ragazza che suona la chitarra? Guarda, la ragazza ci sarà. Tu vedrai sicuramente una ragazza che suona. E che chitarra poi? Agostino intende la bassista che c'era nella produzione italiana. Esatto, esatto. Sì. Vabbè, la nostra bassista è maschio e non ha i capelli. Però io l'ho vista vestita da donna ed è una drag. Non fantastica. È un bel vedere. Eccoci qua. Vabbè. I costumi. Costumi. Costumi. Compagnia del Villaggio e Federica Di Maria, che poi è Killer. Devo dire che lei ci ha dato una grandissima mano in questo. E infatti poi vedrete Killer, sfoggia di quegli abiti, sì, ragazzi. Sì, cari. Non so i vostri, ma insomma. Sono molto kitsch, molto... Già, assolutamente trash. Parla vicino al microfono, grazie. Sì, assolutamente trash i vestiti di Killer. Quindi... Ti sei affidata ai ricordi del musical vero e proprio o di tuo gusto proprio? Li ho un po' rielaborati, però diciamo che la versione originale era quella del musical, appunto, quello londinese. E che ricerca hai fatto? Quanti mesi di ricerca hai fatto per poi porre i costumi a tutti questi artisti che sono qua presenti stasera? Mesi e mesi. Beh, non ho fatto tutti i costumi, però ne hai fatto una buona parte. Sì. Diciamo mesi che è stato divertente, perché comunque la moda rock, come abbiamo visto, è anche tornata appunto adesso, sì, quindi... Certo. Gli spunti se ne trovano tantissimi. Ma soprattutto in ferramenta. C'erano parecchi spunti in ferramenta. E poi devo dire che devo dire anche che una cosa bellissima è stata rivedere i ragazzi che andavano in giro nei negozi a chiedere le maglie degli Iron Maiden o quelle degli Scorpion, o quelle che sono quelle magliette nere che tutti quanti ci ricordiamo, oppure il giubbetto di jeans con dietro appunto questa targa che riportava ai gruppi mitici, Metallica e quant'altro, insomma. Quindi una sofferenza un po', insomma, anche vederli. Sì, mi sentivo vecchio. Aveva ragione il direttore d'orchestra allora, vedi? Tra musica classica e heavy metal, quindi. Assolutamente sì. Ripetiamo la domanda, Laura. Allora, ripeto la domanda. La domanda è: si dice che il primo video musicale fu di Queen, ma di che canzone si tratta? Io lo ricordo ancora, 346 23 20 0 33. Cesare, se vuoi dire qualcosina anche tu? Riguardo a cosa? Riguardo a questo splendido musical o riguardo... Io non posso commentare. Tutto. No, infatti, ma io lo faccio apposta per istigarti. No, è appunto, allora ricordiamo tra l'altro che Agostino è anche in giuria e Blu Radio Veneto è partner di tutta la manifestazione, già che ci siamo. Ricordati anche le altri. Tu mi metti sempre in crisi perché io ho sempre problemi a ricordarmi i nomi. C'è Erika De Lorenzi, Lucia Perin, Anna Sadocco, bravo. E poi chi manca? Mi manca Nando Bertaggia, il grande Nando Bertaggia. No, esatto. E poi c'è anche il voto del pubblico, ovviamente, che potrà votare il musical più bello secondo loro. La presentatrice? La presentatrice è la grande Eva De Bé, burlesque. Burlesque performer. Non farà le performance sopra il palco, si limiterà a presentare. però è un bel vedere lo stesso, no? Il costo dei biglietti, prezzi strapopolari: 10 euro l'intero e 5 euro ridotti per i bambini sotto i 12 anni. Ci fa piacere. Maurizio, se volevi chiedere qualcosa tu. Sì, volevo chiedere a Luca l'atmosfera, cosa si respirava, cosa si respira, cosa si respirerà sul palcoscenico e come si è creata l'atmosfera, come hai cercato di portare avanti questo laboratorio, di portare avanti questi ragazzi per fare questo musico impegnativo. Perché bisogna costruire, bisogna crescere, come abbiamo detto, bisogna studiare soprattutto. Non è tutto semplice. Assolutamente, credo che uno dei primi paletti, anzi il primo macigno che hanno trovato è stato anche il corale, perché i Queen giocano molto sulle voci, chiaramente, sull'impasto. E quindi la Chiara Santa Giuliana lì si è dovuta un po' confrontare e vedere come fare per rendere altrettanto importante un lavoro che loro facevano molto spesso anche in studio, renderlo importante in una scena di un musical, che è una cosa assolutamente, come dire, in qualche modo abbastanza vicina, però nello stesso tempo è lontana. Perché quando si lavora con un coro, quindi con delle persone che devono lavorare e incastrarsi uno con l'altro, recitando, muovendosi, non è la stessa concentrazione che si ha davanti a un microfono quando si canta solo o quando si deve solo pensare a recitare. E la cosa che è stata interessante è far interagire la musica con il personaggio. Cioè Killer la troverete nella canzone come è nella sua parte recitata, come è nel suo atteggiamento. E quindi è stata anche rivisitata un po' la canzone dei Queen classica. Quando Galileo, lui nel suo essere così insicuro, si ritrova a confrontarsi con molte canzoni dei Queen, che invece Freddie le affrontava con tutta la sua potenza, con una delle voci più belle che abbiamo avuto nel secolo, immagino, ha dovuto in qualche modo divenire un personaggio che cantava quella canzone. Quindi devo dire che chi è seduto e conosce molto bene i Queen deve entrare nella storia per capire cosa sta facendo, perché potenzialmente uno potrebbe pensare: ma questo non ce la fa? E invece no, è volutamente una tenuta, perché poi sarà verso la fine che Galileo uscirà in tutta la sua potenza e in tutto il suo rock. Quindi anche in questo senso qua il lavoro per creare l'atmosfera, come hai detto tu prima, c'è un lavoro di fondo che è stato da una parte molto schematico, perché bisognava stare dentro a quelle che erano le note, e dall'altra parte molto libero, perché un bohemian, ragazzi, è la libertà, cioè canta senza fregandosene di tutto e di tutti. Lì davanti c'era bisogno di cantare nello stesso tempo di tenere la nota. Insomma, il lavoro è sicuramente complesso, ma ripeto, è un laboratorio. Era volutamente mettere in crisi dei ragazzi che avevano fatto un percorso che gli dava delle sicurezze. Guarda che c'è sempre qualcosa in cui puoi essere insicuro, affrontalo. Questa certo, è stata certo. Un po' la volontà. Cosa ti ha spinto, Luca, a scegliere proprio questo musical? C'era una motivazione particolare o ti è capitato per caso? Sì, no, c'è una motivazione molto particolare. Allora, se posso raccontare l'aneddoto, certo. È questo. Io ero a Londra insieme a mia moglie e avevamo avuto come regalo di matrimonio i biglietti per gli ABBA, visto che c'è qua Cesare, e poi andare a vedere Mamma Mia. E ricordo benissimo che quando ho visto il costo del biglietto, che erano ben 75 sterline, mi è mancato un po' l'aria, però eravamo lì a Londra e quindi abbiamo detto: cosa facciamo il pomeriggio? Andiamo a vedere se c'è qualcosa, e c'è un botteghino, si chiama Tickets, che offre i biglietti a prezzi inferiori. E abbiamo trovato a 19 sterline il musical dei Queen. Io sono uscito con le lacrime agli occhi. Dalla gioia. dalla gioia quando sono uscito dai Queen, e poi alla sera sono andato a vedere Mamma Mia. Scusami Cesare, ma lì ho avuto un attimo di... mi sono trovato in due mondi completamente diversi. Ma questo è solo un discorso musicale, eh? Attenzione, sì, non sto parlando, certo, dello spettacolo, perché lo spettacolo lo conosco benissimo, apprezzo moltissimo Mamma Mia. Oltretutto anche Cesare ha fatto un ottimo lavoro, e ogni spettacolo ha il suo perché. Quando si è dentro uno spettacolo, qualsiasi cosa, cioè se ci metti il cuore, poi ti lascia, ti segna. Lì devo dire che non me lo aspettavo. Non me lo aspettavo, e sono uscito appunto con tanta energia. E da lì ti è rimasto in mente. Un giorno o l'altro farò, lo affronterò. Ma tu conoscevi precedentemente i Queen come discografia, come musica, oppure no? Sì, li conoscevo. Infatti, inizialmente, come ho detto prima, sono rimasto un po' così, perché dicendo è incollata la storia. È incollata, cioè, la storia. Sono i pezzi. Invece poi la storia ti ha preso. E quante poi... notti insonni, Luca? Quanto tempo? Quanti momenti? Allora, e anche qui vi devo raccontare, che spero sia all'ascolto, il mio amico Antonio Lanzillotti, che poi è anche il direttore musicale, è un notturno, quindi notti insonne molte, mi chiamava e cominciavamo a fare i ragionamenti di notte sul come, come impostare la cosa. E quindi, però, serve, la notte è molto importante in questo senso qua. Il telefono squilla poco, si bravo, riesce a lavorare e bravo, si riesce a essere concentrati. Sono pienamente d'accordo. Ascoltando le note e le vibrazioni. Anch'io sono lo diceva notando, anche De André, questa cosa con De Gregori, che lui voleva dormire di notte, mentre De André non dormiva mai e incideva i pezzi di notte con De Gregori. Era molto contento De Gregori. Da famoso volume ottavo di Fabrizio De André e di Francesco De Gregori. Un meraviglioso disco. Beh, ritorniamo al musical. Certo. Cosa ci fate sentire adesso? Atmosfera. Atmosfera. Visto che abbiamo parlato di atmosfera. Io ricordo ancora la domanda. Aspetta, sì, scusami, sì. Laura, se vuoi ancora ricordarla, la domanda. Sì, certo. Avvicinati anche tu al microfono. Il microfono, Laura, vai. Allora, si dice che il primo video musicale fu dei Queen, ma di quale canzone si tratta? Ve lo ricordo ancora, 346-23-20-033, niente, insomma, io vi invito a telefonare o a mandare un messaggio e a dire appunto la vostra risposta, perché se chi volesse, insomma, andare a vedere questo musical il sabato prossimo, che è spettacolare ovviamente, insomma, come gli altri musical, i biglietti sono esauriti. Mi confermi, vero Cesare? Sì, non ci sono più biglietti, quindi l'unica possibilità, se qualche ritardatario volesse ancora venire a vederlo, cioè l'unica possibilità è quella che vi dà Blu Radio Veneto in questo preciso istante, cioè rispondendo giustamente, meglio dire, alla domanda che vi ha fatto poc'anzi Laura, che le ripetiamo ancora, Laura, per l'ennesima volta. Si dice che il primo video musicale fu dei Queen, ma di quale canzone si tratta? Vogliamo dare un altro aiutino? Sì, diamo un piccolo aiutino, dai. Perché vedo... Hanno difficoltà, probabilmente. Difficoltà. Vuoi dirmi che non stanno chiamando? No. No, allora così vi aiutiamo. Se la contendono con i Pooh, questa prima possibile, cioè è stato uno dei primi video. Ma poi in realtà, poi pensandoci, i Queen hanno fatto uno dei primi video, quindi sono stati loro colpevoli di Ragazzi Gaga, probabilmente. Comunque ci pensiamo a questa cosa. È una canzone, è una rapsodia. più di così non si può. Va bene, allora cosa ci fate sentire adesso? Abbiamo un cambio cantante. Sì, abbiamo un altro personaggio. Qui abbiamo Janis Joplin. Bellissima. Bellissima. Serena Bonato. Esattamente. Benvenuta anche a te. Grazie. Ben ritrovata. Tu sei Janis Joplin proprio, insomma, hai la voce anche da Janis Joplin. Oddio. Ci provi? Parlami vicino al microfono, per cortesia, Serena. Dimmi, allora, si prova ad avere la voce come Janis Joplin? Guarda che Maurizio lì ti sente. Janis, però... Un compito arduo, direi. Però una cosa bella che è giusto sottolineare è che i personaggi vestono dei nomi, ma non rappresentano esattamente quel personaggio, perché loro hanno trovato in giro, hanno trovato questi nomi e non sanno se Madonna è questo o è quello, se vero, Prince è questo o è quello. Quindi loro fanno loro i nomi, diventano Prince, diventano Big Mac, quindi Paul McCartney, diventano questi personaggi, ma in realtà sono magari vestiti da Kiss, e quindi non c'è questo legame, perché si è persa la storia, no? Si è perso il rock. Lei esce da un momento, secondo me, uno dei più emozionanti, di cui parlavi prima tu. Lei arriva dal momento in cui loro dicono: noi siamo qui per ricordare chi ha lasciato il segno, e quindi tutti quelli che sono morti giovani per il rock. E quindi arrivano i vari personaggi che tutti conosciamo, tra cui appunto Janis Joplin, tra cui appunto Michael Jackson e altri. personaggi. Elvis Presley, Jim Morrison e dillo pure, Freddy. A hand above the water, an hand reaching for the sky. Is it heaven? Do you want us to cry? And everywhere the broken hearted, on every lonely avenue, no one could reach them, no without you. Another tricky situation, I got to drowning in the blues, and I find myself thinking, well, what would you do? Yes, it was such an operation, forever pain in every new. Hell, you made a sensation. È stata l'emozione del momento, chi è che ha sbagliato? Esattamente. Il capitano? No, io? Sì. No, no, il capitano era in bolla, come si suol dire. Era in bolla. Unico pezzo scritto dopo la morte di Freddie Mercury. Esattamente, sì. È stato scritto, è un omaggio a Freddie. Questo pezzo fu anche un omaggio a Lady Diana. Sia Freddie e Lady Diana nel 99, Freddie è morto nel 91, Lady Diana nel 99, e fu eseguito anche come omaggio a Lady Diana. Fu l'unico pezzo, giustamente l'ha detto Luca, scritto dopo la morte di Freddie, scritto dai tre componenti superstiti della band. Sì. È tratto da una raccolta, Queen Rock numero 3, quindi una raccolta, non è un disco vero e proprio, una raccolta, hanno preso il singolo, hanno preso un pezzo inedito e l'hanno buttato nel classifico mondiale. Gran pezzo, comunque devo dire che l'ho riscoperto e... ha un suo perché, anzi lo ascolterete, spero, sì, sabato. Io posso solo dire, non mi esprimo perché non posso commentare il musical per ovvi motivi, però quando c'è questa canzone, io penso che Maurizio possa confermarmi, c'è veramente una grande, grandissima emozione, proprio per il contenuto della scena e tutti questi nomi dei vecchi artisti scomparsi, tocca l'anima, soprattutto chi ama il rock, insomma, perché sono grandi. Poi c'è questa canzone, io l'ho sentita cantata in italiano, Però insomma il senso è, sì, sì, è quello. Il senso è quello. E poi, come hai detto tu, senti proprio questi nomi, sembrano dei mattoni che cadono, sì, esatto, a terra e fanno male, perché sono imponenti, insomma. Per dovere di cronaca del 97, non 99, mi sono sbagliato, per dovere di cronaca del 97, la morte di Lady Gaga. Guarda, non volevo assolutamente contraddirti, però no, per essere, perché ci sono tanti amanti delle date, soprattutto di Queen. Beh, giustamente 96 soprattutto, sì, okay. Ricordiamo che questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante. Sono le 22.05, manca qualche secondo, di questo giovedì 7 novembre 2013, con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzabara, ma soprattutto con la compagnia del villaggio, questi tantissimi personaggi che ci terranno compagnia ancora per circa 30 minuti, ma poi insomma vi terranno compagnia. Per quanto dura lo spettacolo, a proposito? Beh, è lunghissimo. Lo so. 2 ore e mezzo di spettacolo. Fate quasi. 2 ore e 20 di spettacolo, esattamente. 1 ora e 10, 1 ora e 10. Beh sì, una pausa di circa 40 minuti, in modo che uno possa distendersi e poi riprendere. Certo. No, assolutamente, ci sono 10 minuti di pausa. Lo spettacolo coinvolge, passano, vi assicuro che passano. Sì. Poi la seconda parte è un continuo, quindi... Sì. Affrontatelo con molta serenità. Poi insomma, la gente, adesso diciamola tutta, la gente ha nelle orecchie le canzoni dei Queen, che sono famosissime. Sì, sì. Quindi a volte si lascerà trasportare, ovviamente, insomma, da queste canzoni. Sì, e sì, vedendo voi che noi cercheremo di aiutarli, sicuramente, ecco. Ripeto, secondo me il senso di questo, di tutta quanta questa manifestazione, quindi di Sognando Broadway, è proprio di portare la gente in qualche modo a sognare e a conoscere questo mondo. Lo facciamo noi in piccolo come compagnie amatoriali, e sperando appunto di in qualche modo di far venire voglia di andare a vedere, i più grandi, come si suol dire, quelli che possono permettersi di essere poi gli originali, no? E quindi è un mondo che io amo particolarmente, e spero che anche questo spettacolo qua aiuti in qualche modo a divulgare questa cultura. Certo. E poi ricordiamo che durante lo spettacolo, insomma, è tutta un'altra cosa che mentre si recita e si canta, che non cantare qui in studio. Credo che per esempio per Serena è un momento molto dolce, un momento emozionante mentre canti questa canzone. Esattamente, quindi senz'altro, sarai trasportata senz'altro anche dalla scena, dall'emozione, insomma, che ti dà questo contenuto in quel momento. Janis Joplin, insomma. Quanto ti è costato in difficoltà fare questa parte? Sicuramente penso che la difficoltà più grande sia lasciarsi andare e perdere completamente quel che si è, entrare nel personaggio. E il rock lo richiede particolarmente, certo, per cui questo lavoro, insomma, di cercare di liberarsi, lasciarsi andare completamente. Questa, se non sbaglio, è la canzone che chiude il primo atto, giusto? Sì, beh, diciamo quasi. Dicono quasi, Agostino. Perché quasi. Lì ce ne sono un altro paio che una poi sentiremo, è abbastanza un inno, no? Invece devo dire che adesso mi metto nei loro panni e devo... La tua domanda, quanto difficile è? Devo dire che la cosa più difficile, adesso parlo come artista, credo sia continuamente, perché poi nel musical ci vogliono tante persone in scena. Certo. E quindi a volte li vedete, voi vedete e dite, ma no, quanti soldati ci sono in scena? Ma guarda, quanti personaggi ci sono in questo momento? In realtà è un continuo cambio abiti che deve anche farti cambiare chi sei. E certo, quindi è difficile per l'artista, il protagonista, fare Scaramouche? Sì, ma è altrettanto difficile per l'ensemble continuare a essere personaggi diversi e essere credibili. Certo, hai ragione. Ecco, questo... Ci facciamo un bel applauso a Carlotta, che si porta a casa questi 2 biglietti. Viva Carlotta! Carlotta! Oh! Che sia quella Carlotta. Potrebbe essere, ma se è lei la salutiamo. Ciao Carlotta. Il video era, la canzone era? Bohemian Rhapsody. Ah, ma dai! Una rapsodia! La prima volta che i Queen hanno utilizzato, possiamo dire che è un pezzo sinfonico, non è un pezzo rock, è un pezzo sinfonico. La commistione tra rock e la sinfonia era proprio una caratteristica di Freddie Mercury. Lui amava l'opera, dobbiamo dire questo, amava quel fantasticare. Ha fatto con una famosa soprano di fama mondiale, esattamente, a Barcellona, famoso disco di rock, ma riveduto e corretto il suo rock, la sua maniera di proporsi. E questo pezzo che abbiamo sentito prima è un omaggio, una ballatona. È difficile cantare una ballatona, cara Janis Joplin. È molto più facile, secondo me, cantare un pezzo rock potente. Ma una ballatona ha i sentimenti, ha i colori tenui, ha i colori malinconici, quindi è arduo. Cosa dici, Luca? Ah, mi viene in mente che le più belle ballate sono comunque rock. Lo so. Sono rock. Sono d'accordo con Luca, finalmente. Le più, beh, dagli Scorpions. Dagli Scorpions, famoso pezzo acustico che... degli Scorpions. Eccola qua. Famosissima. Com'è? Dai che me lo metti in difficoltà, non l'aveva preparata questa. Grande Pierantonio. Grande Pierantonio, bravo. Pierantonio dalla Riva, ragazzi, sì, è lui, è con noi. Allora, solo una comunicazione di servizio per Carlotta, ovviamente, insomma, domani sarai contattata da Cesare Bortolotto, appunto, o qualcuno della direzione, insomma, del Sognando Broadway, e vi metterete d'accordo per la consegna dei biglietti. Non lasciare il numero, Carlotta, lo conosco. Va bene. Le scenografie, che non abbiamo ancora detto. E le luci anche. E le luci. Allora. Grande lavoro di luci, molti spunti luminosi, perché le scene si devono trasformare, devono divenire appunto scene futuristiche, quindi la luce diventa così piena di colore, acida, piena di questo finto, diciamo, quasi, e supportata da cosa? Dalla scenografia virtuale, quindi nel nostro caso non come i più grandi dall'Edwall, purtroppo, però da delle proiezioni che secondo me fanno il suo, li vedrete, e dall'altra parte scenografie molto scarne, quindi quel ferro che sarà a vista, per poi arrivare ancor di più all'uso di scenografie, le classiche scenografie. Quando arriveremo allo stadio di Wembley, lì troveremo la pietra, troveremo il rock, la chitarra, che è poi fatto di quell'unico elemento così tecnologico e avanzato che è una chitarra elettrica, ma tutto il resto saranno macerie. E quindi io sono curioso di vedere il pulmino. Anche quello, se c'è anche quello, adesso vediamo. e poi il trono di Killer Queen. Il trono di Killer Queen. Insomma, beh, io me ne ricordo così, con quello italiano, ovviamente. Non so voi poi, insomma, come sarà. Beh, noi arriverà in elicottero e poi. Vabbè, abbiamo un po' semplificato alcune cose, chiaramente. Certo, Luca, tu hai coordinato tutto quanto, oltre a coordinare la regia, hai coordinato l'idea delle luci, hai coordinato l'idea della scenografia virtuale, hai coordinato questo. Diciamo che la mia passione mi porta a disegnarmi quello che è il piano luci, lo faccio un po' con tutti gli spettacoli, e credo molto nell'uso della luce, come, perché sottolinea assolutamente le sensazioni, le emozioni, il cambio, e quindi mi addentro e cerco di tenermi aggiornato anche in quello che è appunto l'aspetto illuminotecnico. Dall'altra parte mi sono appassionato appunto anche al video, insieme però a dei ragazzi che mi stanno facendo crescere, vedi il feedback come torna, dei ragazzi che mi arrivano lì con un programma e mi dicono: hai provato questo? Hai visto questa cosa? E quindi si è una continua ricerca e si approfondisce, e forse questo è il modo migliore per continuare a fare il regista, perché questo mi dà stimoli per provare delle cose nuove, e quindi non avere sempre lo stesso cliché, ma provare a sondare. Anche per me è un laboratorio. Certo. Quante canzoni avete ancora programmate per stasera? Giusto per regolarmi il tempo. Due. Allora ne facciamo una adesso. Poi se vuoi, ho anche qualche pezzettino recitato. Perfetto, se vorrai. Perfetto. Quando vuoi. Sono disponibile, anche Maurizio, fa molto piacere carpire qualche recitazione. Recitazione, insomma, la foga della recitazione. Da microfono. Non so se hai radio, visto, Maurizio, prima, dimmi. Mentre recitavano la coppia prima, cioè sì, Khashoggi e Killer Queen, anche l'espressione visiva, cioè del viso, era proprio dentro il musical, pur essendo qui in radio davanti. Certo, a un... certo. Il generale aveva una certa espressione, grinta, generale, una grinta non da poco. Anche Federica, anche, tutta certamente, della parte. Anche lei. Poi il generale è molto alto, Andrea, anche fisicamente ha molta grinta, essendo alto, una certa predisposizione alla grinta, caro generale. Vero. Andrea Borile. Andrea presente. Borile, sì. Presente. Padova. Padova. È un padovano, è un padovano, è vostro. L'abbiamo portato via. È l'unico padovano. È l'unico padovano. Va bene, va bene. Cosa ci proponete adesso? Anche come recitazione, ovviamente. Certo, certo. Beh, facciamo prima il pezzo cantato e poi, okay, visto che sono pronti. Allora, il pezzo è molto semplice. Li abbiamo presi, ragazzi. Tutti i Bohemian sono nelle nostre mani. Adesso il generale non deve fare altro che capire e carpire cosa succederà, soprattutto se sanno qualcosa, se sanno dove sta questo elemento che si chiama appunto strumento, se sanno dove stanno gli strumenti. E soprattutto lui, adesso, visto che tutti quanti non danno risposte, deciderà di azzerare la mente di tutti quanti facendoli divenire permanentemente ubriachi. Quindi il, come dire, la Globalsoft sicuramente non cade così in basso per uccidere chi è contro di lei, no, lo rende praticamente una persona nulla. Questo è ancora peggio, secondo noi. I descend upon your hell from the skies. I command you, fiery souls, you unbeliever, bring before me what is mine. The seven seas are bright. Can you hear me, you peers and privy counselor? I stand before you naked to the eyes. I will destroy any military fears my trust. I swear you will be mine. Seas are bright. Sister, I live love for you, mister. You and I die, you are mine. I possess you, belong to you forever, ever, ever. Storm the master, I'm gonna fly through. While the flash and thunder fly. Bravo Andrea. Bravo, bravo, bravo Andrea. Ecco, Freddy non l'avrebbe cantata così, capite? Perché no, quello che dicevo prima, è importante vestire poi il personaggio in brani che invece si è abituati a sentirli in modo diverso. Posso dire una cosa al chitarrista? L'inizio, sì, di questo pezzo mi ricordava Baba O'Reilly degli Who. Hai ragione. Hai ragione. Sì, era una, in realtà questo, questo pezzo fa, questo pezzo qua è, diciamo, un pezzo, il titolo del pezzo in ogni caso. Seven Seas Arrive. Appunto. È un pezzo hard rock. Sì. A tutti gli effetti. Mm-hmm. La chitarra suona solo la, per quinte, si dice, in power accord. Esattamente. Non c'è la terza. Il primo accordo che hai sentito era un accordo cosiddetto aperto con la nona. Però per farlo, ecco, diciamo che l'abbiamo un po' rivisitata in versione acustica. E dobbiamo sottolineare che questo è un pezzo che è tratto da due dischi, Queen e Queen Secondo, con una certa diversità, però il pezzo è lo stesso. Poi è stato ampliato in Queen Secondo e più ampliato, però Queen e Queen Secondo, quindi inizio della carriera di Queen, 1973-74. È molto rock e tu l'hai interpretato molto rock, con molta grinta, con molta... Sei un punkettaro in questo momento, l'hai interpretato quasi punk, secondo me. Ecco. Quando parlavi della quinta era Sabrina Salerno. Ottimo. Immagino che era a casa, ascoltava quinta, sì, nona, terza e via così, scusate. Però. Sì, non era pacchettata Sabrina Salerno. No, no, no, assolutamente no. Assolutamente. Sentiamoci un pezzo di recitazione. Ok, allora io tornerei un attimo a conoscere i Bohemian, visto che prima abbiamo parlato di Brit e di Meat. Brit e Meat sono alla ricerca sfrenata di questo sognatore, sanno che esiste, sono in giro per il mondo sotto le grinfie probabili di killer, ma loro vogliono trovare il sognatore e prima o dopo lo riporteranno all'Heartbreak Hotel, che è proprio la roccaforte di questi Bohemian. Ciao a tutti intanto. Ah, ok. Sì, giusto. Mi è piaciuto Luca, perché io avevo messo il tappeto per partire con la recitazione. Lui è arrivato forse non gliel'hai detto. No. Luca Rossi, lo presentiamo. Ciao Luca, benvenuto anche a te. Ciao a tutti, grazie. E Valeria Vezzarmi. Buonasera a tutti. Benvenuti anche a voi che non abbiamo ancora sentito. Allora, ci fate questa recitazione e poi parliamo un po' di voi. Certo. È abbastanza chiaro quassù, Mitt? Sicuro che i poliziotti se ne siano andati? No. Salgo in superficie! Fa attenzione, salgo anch'io! No! Ah, sei così testarda! Già! Ma è quello che ami di me? Ah, allora, che cosa abbiamo qui? Non molto. La maggior parte è plastica e idrocarboni. Ma abbiamo una lastra di stagno che possiamo far oscillare. Sì. Alcuni sassolini che fanno un bel tintinnio. Sì. Una bottiglia di plastica in cui possiamo soffiare e un pezzo di filo che possiamo far vibrare. Ah, dolce, dolce musica. Se solo riuscissimo a trovare un altro po' di legno da battere. Su quello che abbiamo trovato. Già. Il tuo lavoro è di riportare questa roba all'Hard Break Hotel. Ma Brit! No! No! Io viaggio solo, lo sai! Ah, come posso pensare a quello che devo fare se tutto quello a cui penso sei tu? Da, a volte vorrei che non ti interessassi così tanto a tutta questa roba. A volte vorrei che non avessimo mai sentito la vibrazione. Non dici sul serio. No, credo di no. Ma mi manchi così tanto, baby. È sempre più duro ogni volta che te ne vai. Ah, ma sarò di ritorno. Ritorno sempre. E un giorno porterò il sognatore con me. A volte penso che siamo noi a sognare. Forse la musica è morta davvero. No, sta solo dormendo, baby. È in un sonno molto profondo. Non sarò io a svegliarla, ma un giorno troverò l'uomo che può farlo. E se solo trovassimo la vibrazione perduta, allora potremmo dividere il nostro amore con il mondo intero. E allora sai, vero baby, cosa abbiamo a quel punto? Abbiamo tutto. E lì parte uno dei pezzi più energia pura che il pubblico assorbe e lo rende. E lo diciamo. Lo vogliamo dire? Qual è il pezzo? Il pezzo è I Want It All. Famosissimo. Ok. Insomma, che difficoltà avete allora a fare questi personaggi anche per voi? La stessa domanda. Beh, allora comincio io. Comincia pure. Personalmente ho trovato difficoltà a fondere insieme tutte le caratteristiche di Mitt principalmente, perché è un personaggio molto forte, che molto indipendente, ma anche molto legata a Brit. E è un personaggio anche sensuale, ma è uno dei personaggi più rock comunque di tutto il musical, ed è stato difficile per me trovare in me queste caratteristiche, però alla fine col tempo e con molta pazienza penso di esserci riuscita. Insomma, ti piace fare Mitt, insomma? Sì, è una cosa che desideravi. Esatto, ci vedi proprio, sì, a fare proprio, sì, questa parte. Non avresti chiesto altro. Era il mio desiderio, cioè io ho fatto il provino appunto per questo personaggio, sì. E te lo sei guadagnato il posto, insomma, giusto? Sì. E invece Brit? Eccolo qua. Brit, io lo posso dire questo, non influisce sul mio giudizio. È uno dei personaggi del mio gioco che mi piace da matto. Non so perché, ma questa parte così grezza, consentitemi il termine, mi fa morire veramente, nel senso buono della parola. È un personaggio bellissimo, che va vissuto, va visto, insomma, in maniera, come dire, con molto sentimento, perché lui è il rocchettaro quasi, sì, della band, non è il più rocchettaro, quasi. O sbaglio? Sì, diciamo è il più duro, più rude, il più animale tra gli animali. Sì, non volevo dire quello, ma insomma è uno dei personaggi più... Che poi, vabbè, non diciamo niente. Ma non... Secondo me è il classico personaggio da moto raduno. Bravo! Cioè, è il personaggio. Quello che, col chiodo. Sì, sì, sì, che da fuori sembra il più duro del mondo, e poi dentro di sé, cioè quando cominci a parlarci. trovi una persona sensibile, trovi una persona, e devo dire che questa è una coppia tipicamente rock, loro due sono una coppia che potrei prendere dagli anni 70-80, è presente quel fine 70 dove c'era lui che è molto duro, non parlava poco e quello che doveva dire lo diceva sempre con una certa foga, che sembrava ce l'avesse con lei, e lei innamorata di lui e comunque vicina. Mi piacciono in scena i due ragazzi qua. Sei emozionata, Valeria? Sì, abbastanza. Anzi, si vede. Più che altro è tanto caldo qua dentro. È tanto caldo. Esattamente. Va bene, Luca. Sì. Prima, insomma, abbiamo ancora qualche minuto prima di salutarci. Però, insomma, la domanda che faccio a tutti, la faccio anche a te, a voi. Insomma, dacci il motivo perché uno deve venire a vedere il vostro, non dico Vivi Rocchio, ma il vostro musical. Che bella domanda. Perché deve venire a vedere il nostro? Ma, sì, beh, poi rifare. Bah, credo che al di là poi di tutto, quello che è l'aspetto spettacolo, c'è una bellissima atmosfera dettata da un gruppo che è riuscito a trasmettere la passione. E questo lo dico ringraziando i più vecchi della compagnia che sono riusciti poi a trasferire questa passione e a portarsi avanti, perché Valeria come anche Luca arrivano veramente da quel momento in cui è iniziato il laboratorio, e se sono rimasti con noi credo che molto sia dovuto anche a quell'atmosfera, a quell'aria che si respira nel gruppo, che è un'aria molto semplice, niente di particolare, però c'è gente vera. Io credo che questo basti per dire che quando arriverete lì troverete un'atmosfera vera. E ricordiamo, e lo voglio sottolineare, che anche per voi non c'è nessuno professionista, giusto? Siete tutti amatoriali. Esatto. E lo fate per passione. Assolutamente sì. Il rock è passione. Bravo. Sono pienamente d'accordo, penso che più di me sia anche Maurizio. Sì, perché rock è rock, come diceva Adriano un po' di tempo fa, il rock è rock. C'è poco da fare. Quando dice rock è rock già identifica tutto quello che si può dire. Il rock è trasporto, è passione, coinvolgimento, è musica con la M maiuscola. Freddy è uno, è forse il più grande esponente, ma ce ne sono tantissimi musicisti importanti. Ma Freddy aveva questo, era un musicista, era un appassionato, era uno che trasportava, quello aveva Freddy. E ha trasportato anche i ragazzi, secondo me, inconsciamente, nell'area, come si dice, li ha trasportati a fare un percorso, un laboratorio di un po' di anni per arrivare a questo punto. L'emozione è bella, l'emozione è giusta, perché uno deve essere emozionato per fare qualcosa, secondo me. Sì, credo che sia la chiave. La chiave di tutto è l'emozione. Uno, se non è emozionato, vuol dire che non sente la parte. Deve essere emozionato, deve dare tutto, perché l'emozione dà una certa cosa al pubblico. Il pubblico la vede, l'emozione, vuol dire... La recepisce immediatamente, è un'emozione positiva, non negativa. No, è positiva, ma sai cosa? Che si respira aria di qualcosa di perso, di epico, e che però era molto vicino, e ancora molto vicino a noi. Cioè, intendo dire che quando ti arriva quell'immagine, io ogni tanto lo rivedo, quel concerto a Wembley. Sì, quello famoso. Quel famosissimo concerto a Wembley, credo che alla fine ti rendi conto di cosa ha segnato quell'evento, che probabilmente era un'agenzia che ha deciso di organizzare, sì, insieme ai Queen questa cosa qua, ma chi poteva dire che restasse nella storia e diventasse quello che poi è divenuto, insomma, per tutti l'emblema di un periodo. Di un periodo, sì. Qual è il prossimo musical che vai a vedere? Così so cosa farai. Ma in realtà ne ho visti, no, ne continuo a vedere. Ti confido che Cesare ha visto recentemente Jesus Christ Superstar, no? E allora è un chiodo fisso di Agostino. Io l'ho già affrontato quello lì. Però... Lo rifai? Non dico nulla, dai, non dico nulla. Wow, andiamo oltre. Uno spiffero. Comunque so chi invitare in casa. Grazie, ecco. Sei un tesoro. Uno a caso. Vabbè. Io lo amo. Che ma guarda, visto che ce l'abbiamo qui, fagli un riff di Jesus Christ Superstar. Wow. Ma questo è Giuda. Vuoi che ti, sì? Vuoi che ti presentiamo il pezzo successivo, sì, su questa base? Va bene. Allora ragazzi, è arrivato il momento. Yes, vai, continua. Voi pensate che il rock... No, cosa sia questo rock? Cos'è questo rock? Il rock non è altro che fare qualcosa anche per la tua baby. Yeah. This face I can't love and I'm just, I can't handle it. Have this thing and color by mask and get around so it. And then the ready, crazy little thing, hello. Have this thing and color, he'd cry in a cradle night. This wing, it jive. Shake on over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing I love. There goes my baby. She know how to rock and roll. She drives me crazy. She give me all the cool, the fever. She leave me the cuckoo sweet. Oh yeah. I've gotta be cool and relax. And get in, yeah. Get on my drive, take a backseat. Hitchhike, taking on the ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing I love, crazy little thing I love, crazy little thing I love, I'm crazy little thing I love. Wow. Ci avete anticipato che volevamo salutarvi e poi far sentire questa canzone, ma va bene lo stesso. Magari terminiamo se avete un'altra canzoncina veloce. Guarda, possiamo fare una canzoncina oppure potremmo anche conoscere un po' meglio i due protagonisti. No. Hai voglia? No, non che, hai voglia. Cioè, abbiamo cos'è? Poco tempo. No, è già arrivato il collega che deve. Siamo già. Ah, stiamo già sforando. Sì, esatto. Salutiamo allora. Salutiamo. Salutiamo. Se volete, vi metto su We Will Rock You proprio la canzone. Ok, Sì, va bene. È alla base. Un attimo, c'è Scaramucci che vuole dire qualcosa? Posso un microfono? Sì, certo. Prego. Okay. Vieni vicino. Da parte di tutti quelli noi che sono qui, volevamo salutare il pubblico ovviamente che ci verrà a vedere. Parla vicino al microfono. Volevamo salutare il pubblico che ci verrà a vedere sabato, Carlotta, a quanto pare. Ma soprattutto volevamo salutare tutti i nostri colleghi della CDV Lab che non sono qui con noi. Ragazzi, ci vediamo sabato. Keep calm and we will rock you. Yeah! Bravissima. Bene, Luca, noi ti ringraziamo a nome di tutti, insomma, di salutarci tutta la tua band, la tua compagnia, e ti ringraziamo di aver partecipato a questa serata. Beh, grazie a voi per l'ospitalità e in per bocca al lupo. Cesare, se vuoi dire le ultime due parole. Ma solamente che vi aspettiamo sabato a tutto il pubblico, quello che ha già prenotato o comprato i biglietti visto che non ce ne sono più disponibili, e comunque vi posso dire che vi godrete un bellissimo spettacolo. L'appuntamento quindi è alle 21 di sabato 9 novembre 2013 al Polivalente di Albignasego. Io vi do l'appuntamento a giovedì della settimana prossima con Max Manfredi, un cantautore, verrà a presentare il disco nuovo. Cantautore ligure. Ligure, dalla Liguria. E Maurizio, tu invece? Dunque, oggi è giovedì, riposo, venerdì, riprendiamo... No, ci sarai anche lunedì. C'è lunedì con il cantautore con americano. Live, e poi riprenderemo martedì con Flavio Bilato. È un gruppo fonico, mi pare si chiama. Sì, una cosa di questo genere. Gruppo fonico locale. Sono dei personaggi molto interessanti, ma il rock è sempre interessante, come è sempre detto. E abbiamo ripetuto e ripeteremo sempre. Rock è vita. Il rock è vita. Allora, ancora un grazie a Sognando Brodovi. Vi ricordo che Blu Radio Veneto è la media partner dell'evento, della manifestazione. Il sottoscritto è in giuria. Ragazzi, io non... Sapete, ve lo dico di nuovo, non posso esprimermi. Perché... Io sì, posso esprimermi. A me... Lo spettacolo è piaciuto, quindi andate a vedere Will We Rock You, assolutamente. In bocca al lupo per sabato, ragazzi. Crepi il lupo. Ciao. Grazie, ciao. Grazie. Rock! Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take off. Blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Somebody better put your bag into your place. We will rock you.